noi non siamo d'accordo, continuiamo da questa parte, o almeno facci fare tutte e due, voi fate quello e noi continuiamo la tavoletta. Non solo ci dissero di no, ma ci dissero: adesso voi avete finito, andate. Alle 8.30 di giovedì mattina la trivella comincia a scavare il secondo pozzo. Intanto, nella sede RAI di Via Teulada, arrivano le prime immagini girate nella notte. Da quel momento il circo mediatico comincia ad aprirsi. Prima uno sforamento, come si dice in gergo, del TG1 delle 13.30, poi succedersi delle edizioni straordinarie nel corso del pomeriggio. L'Italia intera sembra racchiusa nel dramma che si sta vivendo a Fermicino e che la televisione trasmette. Eppure, in quella primavera, il paese è lacerato da alcuni eventi drammatici. Il 13 maggio, il terrorista Ali Achka spara a Giovanni Paolo II. Il presidente del Consiglio Arnaldo Forlani rende pubblici i nomi dei 964 iscritti alla loggia massonica P2 e dopo 5 giorni è costretto a dimettersi. Le Brigate Rosse rapiscono Roberto Peci, il fratello di Patrizio, il primo pentito delle BR. Il presidente Pertini affida a Giovanni Spadolino l'incarico di formare un nuovo governo e dal dopoguerra è la prima volta per un laico. Ma da giovedì 11 giugno tutto questo passa in secondo piano. In prima pagina c'è Vermicino e il dramma di quel bambino nel pozzo. Stamane l'apertura di questo giornale è dedicata ad un fatto di cronaca che da diverse ore sta tenendo tutti col fiato sospeso. Un bambino di 6 anni è caduto ieri sera in un pozzo artesiano nei pressi di Frascati, vicino Roma. Il bambino è intrappolato nel pozzo ormai da 19 ore. A Vermicino intanto i tecnici sono al lavoro con la trivella, ma sotto lo strato superficiale il terreno è roccioso e lo scavo procede a rilento. Un vigile del fuoco in particolare riesce a stabilire un rapporto di fiducia con il bambino, intrattenendolo e incoraggiandolo. Si chiama Nando Broglio. Ho cominciato a dialogare con lui, insomma, promettendogli che quando veniva fuori lo portavo con me nei vigili del fuoco, sulla macchina, la sirena, e sentivo che lui era propenso a dialogare, a sentire, no? Giovedì 11 giugno alle 16 Alfredino è nel pozzo da 21 ore. A Vermicino entra in funzione una seconda trivella più potente e solida di quella utilizzata sinora. I tecnici gelano però le speranze dei presenti. Lo strato di roccia è molto duro e per recuperare Alfredino, dicono, ci vorranno dalle 8 alle 12 ore. Intanto intorno a quel pozzo si è radunata una folla crescente, una folla immensa, migliaia di persone tra curiosi, volontari, autorità locali. La confusione ormai è totale. Ascoltiamo Pietro Badaloni. Non c'era neanche lo spazio vitale per far passare l'ambulanza, che era bloccata e sovrastata da queste, erano state 10.000 persone che si nutrivano grazie agli ambulanti che portavano panini, bibite, insomma era diventato un reality show terrificante che mi fece tornare a casa molto stomacato. I centralini della RAI e dei vigili del fuoco a questo punto sono intasati. I volontari chiamano a migliaia con offerte di soccorso, ma anche con improbabili consigli su come tirare fuori Alfredino. La RAI, da parte sua, stravolge i palinsesti. La diretta più lunga della storia della televisione italiana è iniziata. Buonasera. Molti fatti interni e internazionali caratterizzano la giornata di oggi, come avete sentito dai titoli. In Italia la crisi di governo che vede il segretario repubblicano Spadolini impegnato nel tentativo di formare un nuovo governo. Tesa la situazione in Polonia ed altrettanto in Israele dopo il raid sulla centrale nucleare in Iraq. Ma c'è un fatto drammatico che tiene da 24 ore tutti con il fiato sospeso: la sorte del bambino di 6 anni. Ed è ieri sera prigioniero in un pozzo. Quanto manca per raggiungere il piccolo Alfredo? Alfredo Rampi è in fondo a quel pozzo ormai da poco più di 24 ore. Ma neppure un'altra notte di scavi, di tentativi improvvisati, basta a tirarlo fuori di lì. Sono le 7.30 di venerdì 12 giugno. In diretta, nell'edizione straordinaria del TG2, la mamma di Alfredo, Franca, dà sfogo a tutta la sua legittima esasperazione.

ho levato questa qui, volevo assicurarmi che fosse il bambino, perché talmente pieno di fango non riuscivo bene a vedere. E io ho detto un po', tira 5. Cos'è tira 5? 5 centimetri. Perché il lavoro che dovevo fare si basava solamente sulla testa, capito? Allora i 5 centimetri servivano perché non potevo con la mano piegare, in quanto qui non c'era spazio. Perché io parlavo con lui, lui non parlava, rantolava. Ho provato a mettere questa cinghia passandola così dalla testa, ripassandogliela sotto le ascelle, così, e girata qui, in modo che con le mani potevo tirar su. Tira piano, loro questo tira piano, non so il piano, e ma la stratonata che proprio, oltre che sentivo già i piedi che non reggevo, la stratonata ha permesso alla fettuccia, diciamo, di scivolare e di uscire, di andare via. Ma l'hai preso, l'hai visto? Dove cazzo, mi ragazzi, come scivolava? L'ho visto l'occhietta, la sangue. Eh? Eri caduto giù? L'ho pulito gli occhi da sangue. Eri caduto giù? Sì, sì. Dove sta adesso? Dove prima. Ok, comunque aspetta. Giulio. Giù intorno alle braccia. No, è impossibile. Lui parla ancora. Non si lamenta solo. A un certo punto l'ho preso la testa dei gomiti, però era talmente fino e viscido che è scivolato via. Ho provato ancora a tirarlo su, ecco, e l'ho rotto il polsino. E allora lì mi sono trovato, quasi ho provato un senso di colpa, dico guarda un po', dopo quanto sta soffrendo, mancavo io che arrivassi lì a romperti anche il polsino. A questo punto ho detto basta, ho detto tira. Tira, poi lì ero disperato e lì mi è saltato proprio il sangue, mi ribolliva tutto. Anche Angelo Licchieri si è dovuto arrendere. A questo punto a Vermicino regna l'improvvisazione. Lo stesso Pertini, che è rimasto tutta la notte attorno al pozzo, non nasconde il suo nervosismo. E nella rabbia di Pertini sembra esserci quasi tutto lo sgomento, l'impotenza di tutta l'Italia. È un evento mediatico senza precedenti, 18 ore di diretta non stop, che oscura tutti gli altri drammatici eventi di quei giorni e che inchioda davanti alla televisione una media di 21 milioni di telespettatori. E Vermicino intanto è quasi l'alba. È l'ora di un ennesimo disperato tentativo per salvare la vita di Alfredino. Tra la folla si fa largo un giovane minuto, 25 anni, uno speleologo, si chiama Donato Caruso. Come richiede anche Caruso le caratteristiche ideali per riuscire nell'impresa. Di corporatura molto esile, appare calmo e risoluto ed è un esperto di speleologia. Su di lui si concentrano le speranze di milioni di italiani. Donato! Lo vedi? La rossa. Donato! Ti risponde? Allora prendo! Acchiappalo! Lo senti respirare? Non ci importa adesso, teniamolo su. Digli che lo legasse bene. Legalo bene. Sei legato? Nel bambino. Questo deve fare, non lo credo. Ecco, forse avete sentito. Donato è risalito senza bambino, senza Alfredo. Ha provato a legarlo. Adesso non sappiamo cosa è successo. Anche Caruso sembra aver fallito. Dopo 15 minuti lo speleologo risale al pozzo di collegamento. In superficie sono tutti ormai scoraggiati. Poi però dal buio di quel pozzo arriva una notizia. Ecco, questa è una notizia, non so se l'avete sentita. Donato non vuole risalire, ha detto che si vuole solo riposare e poi ritenterà. Dì che prova se la manetta regge. Il secondo tentativo mi diedero delle manette da mettere, però era collegato con una corda dipendente dalla mia, perché erano più pericolose ancora, perché se rimanevo un cassero là sotto, ci rimanevo pure io, diciamo. Sabato 13 giugno alle 7 del mattino Caruso torna in superficie, anche lui ha fallito. Ai vigili del fuoco comunica che Alfredino Rampi giace in quel pozzo ormai privo di vita. ad annunciare la morte del bambino all'Italia intera è il professor Fava. Debbo concludere, a seguito di queste rilevazioni, seppur indirette, che una presunzione di morte purtroppo la dobbiamo accettare, tristemente accettare. Gli errori tecnici sono stati fatti frutto appunto dell'improvvisazione, della pressione, del fatto che mancasse un coordinamento e forse anche un po' di scarsa fiducia in noi, negli speleologi. Si furono un po' fatti prendere la mano dal fatto che a quel punto la cosa era così importante che non potevano operare con successo quattro ragazzi, per quanto esperti, giovani, capelloni, tra virgolette, e in un posto come questo. Lì doveva essere lo Stato, doveva essere lo Stato a tirarlo fuori. Alle 10 del mattino di quel sabato 13 giugno tutto è finito. Alfredo Rampi giace senza vita a più di 60 metri di profondità, in quel pozzo dove è caduto 63 ore prima. Per l'Italia intera che ha seguito ora per ora lo svolgersi di questa tragedia, è il momento delle polemiche sui soccorsi. Ma è anche il momento di interrogarsi su quell'evento mediatico senza precedenti, sull'opportunità e soprattutto sul perché di quella morte in diretta. Ne parlano Sergio Zavoli e ancora Pietro Badaloni. Ugo Zatterin, direttore del TG2, ebbe tuttavia la vedutezza di interpellare il direttore generale Agnes e me, che allora ero presidente, sull'opportunità di trasformare dei servizi di cronaca in qualcosa invece di più organico e sistematico, fino a farne una sorta di continuum che occupasse addirittura lo spazio della rete, non più soltanto dei telegiornali. E io ricordo che noi lo incoraggiammo. Ci pareva che quella fosse un'occasione da non lasciar cadere. Comunque, se dipendesse da me e se dovesse capitare domani un'altra volta una situazione analoga, non rifarei mai, mai più quello che venne fatto allora. Il corpo di Alfredino è stato recuperato l'11 luglio dell'81. Dal momento in cui è caduto nel pozzo sono passati 31 giorni. Hanno collaborato i gialli della storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.